avvicinato al circolo, te lo ricordi quello nero? Oh, quello non va bene, quello è Duampere, non lo attaccava nemmeno perché si duccia, lascia perdere. Quando tu fa Adriano adesso, quello è tutti due con gli alimentatori, ti prendi, non costa niente, sono 5 euro, vai con 5 euro, prendi con due finali, 2,755, li riporti Adriano ti, ti sistema con l'alimentatore a 5 ampere e te lo metti a baracchino. L'altro da Duampere ti do con la ventola e lo utilizzi per i Adriani e sei a posto. Qual è il problema? Non ho capito. L'antenna come si leva, si è a posto, non la vuoi di più, boh. La verità. 1000 watt. Sì, 1000 watt, no, però proprio, ma come? Stavo vedendo le antenne americane da camion. Certe antenne sono di 1,80 m, però hanno alla base una bobina grossa. Praticamente una spirale, una bobina larga e alta, che ne so, alta 30 centimetri. Belle sono quelle antenne. E quanto vengono? 20 euro, 30 euro. In America sì, però se la vuoi qua ti costa cara, perché devi pagare un mese di spedizione. Reggono 20 kilowatt, questi sono matti. Già va bene. La metti in casa, quella, la carta cielo, è da quello che esce, ma senza variare anche. Hanno fatto vedere gli americani che praticamente mettono talmente tanti watt che dall'antenna esce il fulmine e scarica sugli oggetti metallici vicini. Proprio il botto mi fa, questi sono matti sono. Vabbè, visto, invece noi siamo fissi. Lui ci copriamo le mantole, basta che tu prendi un'antenna di quelle americane, la metti sopra il tetto, gli fai una bella piastra di metallo, larga 6-7 metri, gli allaggancia al tetto, e gli potenzia di quello che vuoi di watt, sai, da quello che ci conta una mantola esci. Però l'antenna non è meglio svilupparla in lunghezza anziché farla tutta con una bobina corta, diciamo, tra virgolette. Sì, ma lì il discorso è diverso. Loro hanno 200 piani, non ce l'hanno come ce l'abbiamo noi, capito? Quindi è per quello che usano antenne corte, non usano antenne lunghe. Tu lo sai, ti rimetti lì e con la questione che i grattacieli sono talmente alti e poi provocano con quelle ventole di calore, quindi hanno il temporale ogni giorno, capito? E quindi si formano scariche elettrostatiche, ecco perché c'hanno quelle antenne così corte. Ora Marco, guarda come si sente adesso, cambio, ola. Sotto si sente un... Cosa si sente? Ola, niente, male. Giuseppe, io ti sento, però sotto c'è questo. Allora, l'eco io l'ho messo a zero, guarda vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda com'è il passaggio. Ecco, adesso non ne ho sentito di quel rumorino, non ne ho sentito. Allora, come alto l'eco, allora si fa quel rumore lì, capito? Ma che microfono hai, Giuseppe? Uguale a quello di Antonella a casa sua. Sarelta, hai capito? Allora mi correggo, ogni tanto lo fa, ogni tanto come parli lo fa. Ma non è che c'è la batteria scarica, no? No, non c'è la batteria scarica, io l'ho cambiata, io l'ho messa nuova. Oh, allora qualcosa di massa, che ne so, Antonello lo sa, qualcosa di massa che manca, boh. Non lo so, Marcolino, non lo so. Io sono sempre del parere che il microfono originale è sempre la cosa migliore. Lo so, Marcolino, che cosa vuol dire? Il microfono originale, quel quello che questo barattino qua del Galas, io c'ho lì, l'altro c'ho il coso, l'Index, capito? Però se mi senti anche con quello strano, però vuol dire c'è qualcosa che non va bene. Qua sta cucinando. Mamma, ma io di mangiare non ne ho tanta voglia, lo sai. Oggi non so perché. E cosa sta mangiando? Cosa sta cucinando? Roba buona, Marcoli? No, di notte oggi voleva stare leggera, ma sta facendo una minestrina tipo verdure, ma cosa del genere. Per secondo non lo so. Ti conviene solo mangiare il primo e basta, e ti tieni leggero, Marcoli, perché di notte se vuoi se ti senti troppo pesante, capito? La sogna migliore. Come Antone? Via via, come è l'asino? Ah, troppo amplificato, sì, ho capito, l'asino. Tu pensi che poi fanno di tutto quando qualcuno arrivava a Santiago 3 con picchi fino a 7, all'anima, tutto praticamente in modulazione, come una banda laterale. Abbiamo la portante già con i watt giusti, quelli escono tipo con 2 watt normali e 100 watt di picco, roba da matti, tutto modulato è praticamente. Ui, non mi piacciono, li disturbano un bel, sono un casino quei baracchini, cioè escono forti però è tutto una cionfra. Tu te la ricordi a Roberta, avremmo trovato una vicina per la mia, te la ricordi? Naturalmente no. Se tu sei sotto il buco, me la riga te la ricordi. Se fatto l'avrei conosciuta, magari in piccolo, come periodo. No, mai conosciuta in verticale. Secondo me sì, il piccolino lo fa. La verità, adesso quella che hai sentito parlare almeno. Ehi, però non me li ricordo molti. C'era troppa gente da ricordare. Tu parla su Facebook. Sì, c'è Roberta, Gerano e guarda chi è. Lo vedi subito. Aspetta che vado a guardare un attimo. Controlla, controlla, una bella ragazza è la verità. Sono la verità tua, mi hai più di meno. Ciao Marco, ma no, ci sentiamo domani, dimmi che va, stai bene, alla mattina. Dimmi allora. bagnati, eh? Sì, tu bagnati col cane, c'è un cane qua a casa, non hai capito poco da fare, ciò vedo me insieme a me. Se poco fa mi permetto di toccare a Simone, mi musica l'uccello quello. Italia. Io lo scuccio a Portogallo. Ok, lo scuccio a Portogallo.